Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, ecco il traghettatore e il sergante, siamo in viaggio con Ferribot e questa settimana fra l'altro vi proporremo una singolare, vedrete, curiosa sosta in un'isola, ovviamente come si rispetta per una nave, ancorché Ferribot, è chiaro che poi attracca. Questa puntata attraccheremo in un'isola un po' speciale che ci aiuterà, di cui senso ci aiuterà a capirlo Pietro Palella, buongiorno. Che è in linea con noi. Sono qua, sì, ecco, la sento. Pietro Palella è direttore generale di una ST Microelectronics, che è un'azienda emblematica del futuro di questo paese, perché è una grande multinazionale molto italiana, con molte sedi in Italia, sud e nord, che ha una posizione di leadership mondiale, così? Direi di sì, siamo il numero 5 al mondo. Il numero 5 al mondo, che non è essere il numero 1, ma non è neanche essere il numero 87-125, come spesso capita. ST Microelectronics ha anche un altro record, è quello di essere una campione di ecosostenibilità. È vero che voi risparmiate qualcosa che va dai 200 milioni ai 230 milioni di dollari all'anno? Ma sì, noi abbiamo iniziato un po' di tempo fa, nel 94, con il nostro decalogo ambientale, con una serie di iniziative di risparmio di energia, di acqua, di materie prime, di riciclo dei rifiuti, facendo un conto adesso ad oggi rispetto a quello che sarebbe stata la realtà se non avessimo preso quelle iniziative, il nostro risparmio annuale è attorno ai 200 milioni di dollari, sì, annuale. È come dire, come aver aperto una nuova linea di business sostanzialmente. Quando parliamo di economia sociale diciamo queste cose e ci stiamo capendo. Noi diciamo che l'investimento in iniziative ecosostenibili è un investimento con un buon ritorno e abbiamo i dati per poterlo affermare. Ecco, voi fate anche qualcosa di importante per il territorio. Voi siete ad Agrate, che non è un territorio facile, per esempio dal punto di vista della mobilità. Certo. Cioè i vostri dipendenti devono arrivare sul posto del lavoro e non possono certo usufruire di trasporti pubblici, diciamo, all'altezza del bisogno. È vero che voi avete elaborato una strategia sul territorio che sta funzionando sui termini della mobilità? Sì, come lei dice, arrivare ad Agrate non è facile con i mezzi pubblici, quindi noi ci siamo messi al lavoro con le società di pubblico trasporto, ATM piuttosto che altre, adesso NET, per poter creare un network integrato di trasporti che permettesse alle nostre persone di poter arrivare qui da noi usando trasporti pubblici. Il risultato è un risultato netto. Da quando abbiamo iniziato, quindi 7-8 anni fa, abbiamo praticamente calcolato che abbiamo tolto dalla strada circa 1000 macchine. Cioè mille macchine che sarebbero arrivate ad Agrate non arrivano più perché usano i nostri trasporti pubblici, e questo equivale circa a 6 tonnellate di CO2 in meno emesse in atmosfera ogni giorno. 1000 auto sono davvero un record. Se considerassimo che se tutte le aziende del comprensorio Milano-Brianza, Monza-Brianza di cui stiamo parlando, che sono alcune decine di migliaia, in proporzione facessero altrettanto, le nostre strade sarebbero meno congestionate e l'aria più pulita, decisamente. Ecco, tutto questo, e andiamo al sodo, andiamo verso la nostra isola in cui sbarcheremo, tutto questo ST Microelectronics adesso la vuole promuovere, la vuole trasferire anche alle amministrazioni comunali. Diciamoci la verità, l'esperienza che avete fatto può essere utile alla migliore e più efficiente amministrazione comune della provincia lombarda. Ma sì, perché noi siamo in pratica una piccola comunità locale, qui abbiamo circa 4.500 persone che vivono in questo sito in Agrate, però dal punto di vista della complessità in termini di energia, per esempio, siamo paragonabili a un comune di 45.000 abitanti, in termini di consumo d'acqua a un comune di 33.000 abitanti, in termini di smaltimento rifiuti un comune di 15.000 abitanti, e su questi temi, rifiuti, acqua, mobilità, abbiamo detto prima, abbiamo sviluppato delle tecniche nostre per migliorare il nostro impatto sul contesto, sul territorio che ci circonda, e queste vorremmo mettere a disposizione dei comuni, penso che possa essere interessante. Grazie ingegner Palella, effettivamente quello di cui oggi parliamo, l'isola in cui ci apprestiamo a sbarcare si chiama Cresco, crescita compatibile, e sono isole ovviamente virtuali che in questo momento sopravvivranno in Lombardia grazie ad un'iniziativa di Sodalitas. Con noi c'è in studio il vicepresidente Alessandro Beda. ST, ingegner Palella, non sono delle gocce del mare, sono un'espressione di un tessuto connettivo di imprese che effettivamente sui temi della sostenibilità si stanno muovendo tanto e bene. Ma sì, allora, Caresco, noi abbiamo cercato di fare, mettere insieme queste gocce del mare, cioè un'alleanza tra imprese virtuose, sono 23, comuni e università, per diffondere nelle comunità, quindi tra i cittadini, le pratiche di sostenibilità. A me è piaciuto molto quello che ha detto l'ingegner Parella, che ST Micro Electronics è come una città di 50.000 abitanti che consuma acqua come se ne avesse, eccetera eccetera. Abbiamo appena sentito, quindi è vero che senza, virgolette aperte, l'ingombro della giunta, della politica, delle istituzioni, dei regolamenti che alle volte sono sovrastrutture burocratiche, diciamocelo francamente, è possibile che l'esperienza di management di un'azienda come ST possa essere molto utile al sindaco di una città che si appresta tutto sommato a gestire ambiti, ambienti e numeri che sono molto simili, no? Ma qui immaginiamo di moltiplicare questa esperienza fortissima che ha l'ST per 23, cioè per 23 imprese che partecipano a questo progetto. E abbiamo una montagna di conoscenze, di pratiche che possono essere trasferite con grande efficacia nei territori, in queste che noi chiamiamo isole Cresco. Quello che è Sodalitas, che ricordo a chi non la conoscesse è espressione di Assolombarda, quindi sono le aziende di Assolombarda che hanno una speciale attenzione ai temi della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità, e l'idea che Sodalitas ha sviluppato, attorno alla quale ha coagulato una serie di attori, per cui è partito un progetto che è stato annunciato proprio ieri in un incontro che si è tenuto ieri a Milano. Un progetto in cui mettere a sistema queste esperienze, le pratiche delle imprese con la domanda, l'attenzione, la sensibilità di alcune amministrazioni comunali. Chi sono gli attori oltre a Sodalitas, Veda? Ma questa è un'alleanza, appunto, come dicevo, tra queste 23 imprese avanzate, con Lega Ambiente, con Cittadinanza Attiva e con una sinergia molto importante con il Politecnico di Milano. C'è anche la parte pubblica in tutto questo, c'è anche la presenza della Regione Lombardia? Assolutamente, siccome siamo partiti, il progetto Cresco è un progetto nazionale, però siamo partiti con la Regione Lombardia, allora la Regione Lombardia ha preso un grosso impegno di sostenere fortemente questo progetto e di lanciarlo anche lei a livello italiano. Ecco, adesso elencare 23 aziende non è utile, non è neanche forse interessante, può essere interessante definire il tipo di azienda. Sono tutte aziende di una certa importanza, sono aziende anche multinazionali, quindi aziende che hanno una corposa capacità di investire sulla ricerca e sulle analisi, no? Ma per esempio, non voglio citarne una perché ma proprio ieri una di queste aziende ci ha fornito una ricerca sulla sostenibilità fatta in 8 grandi città europee. Ecco, per esempio, una comunità... Comune quando mai riesce a fare, esatto. Neanche la regione riesce a fare, esatto. Costerebbe troppo. E questa è un po' la chiave assolutamente originale e sulla quale vi invito anche a riflettere, perché nel mondo delle imprese in Italia succedono delle cose straordinarie, che è un po' anche il viaggio che propone Ferribot, viaggio straordinario su aziende che si impegnano non solo per il profitto ma anche, no, beda, sulle persone, sul territorio, sull'ambiente, eccetera. Quindi Cresco ha, secondo me, il vantaggio, non lo dico perché stiamo occupandoci, ma oggettivamente dal nostro punto di vista Cresco è il punto chiave in cui si incontra l'esperienza, la pratica, anche la capacità innovativa dell'azienda e l'amministrazione del territorio, che invece sappiamo che ha dei problemi, diciamolo francamente, di aggiornamento, di investimento, di visione, no, del territorio. Assolutamente sì, ma direi che queste, dopo ne parleremo, prime tre isole Cresco Lombarde hanno capito questa possibilità, questa opportunità, e sono sicuro che ne faranno buon uso. Ecco, anticipato Sodalitas, le prime tre isole ci sono, in effetti ne parleremo fra poco, anzi parleremo con un, come dire, naufrago, giusto per rimanere nella metafora dell'isola. Adesso però c'è una parte importante in tutto questo, perché non c'è nulla lasciato al caso, è la formazione. Cioè non è che qui parliamo di un'azienda che arriva, mette sul tavolo la cartellina stampa e se ne va, no? È evidentemente un processo di metabolizzazione da parte della società civile, dell'amministrazione, perché si sposi realmente in maniera fattiva e soprattutto concreta il progetto. Se si vuole risparmiare l'acqua come ha fatto ST ed arrivare a risultati importanti, beh, la gente deve essere educata, la scuola deve essere resa partecipe, la pubblica amministrazione deve comunicare. Per questo c'è un ruolo importante che è quello del Politecnico di Milano. Con noi c'è Emanuela Colombo, che è del Dipartimento di Energia. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. A voi spetta l'onere e direi anche l'onore di aprire un collettore di comunicazione divulgativo, perché le città di cui parleremo fra poco, intanto, ma saranno, speriamo, sempre di più, vengano inserite, inglobate in un processo educativo importante che coinvolge le scuole, i ragazzi, i giovani, i cittadini e poi soprattutto la pubblica amministrazione. Buongiorno a tutti e ringrazio per aver invitato anche noi a questo incontro, e devo dire che le parole che ho sentito nella prima parte della trasmissione sono assolutamente in linea e mi fanno molto piacere, perché noi crediamo fortemente che il progetto Cresco sia un esempio davvero significativo di azione concreta sul territorio, che, come avete detto bene voi, finalmente mira a fare sinergia tra gli attori stessi che operano sul territorio, lasciando ad ognuno il proprio compito, e in questo modo valorizziamo le competenze del territorio. Il cambiamento che si intende promuovere con il progetto Cresco, come diceva il dottor Beda, è un passaggio dalla sostenibilità predicata alla sostenibilità praticata dell'intera società nei confronti dell'ambiente, focalizzandoci per una volta su delle tematiche che sono molto connesse alla vita quotidiana dei cittadini: il risparmio, l'energia, i rifiuti, il riciclo, la mobilità sostenibile. Ecco, per realizzare questo cambiamento è importante attivare un processo, come lo chiamiamo noi, di eduformazione, educazione e formazione. Ecco, professore, come avviene concretamente? Avete in programma di fare degli eventi, di andare nelle scuole a spiegare cosa vuol dire risparmio energetico, mobilità sostenibile? Allora, senz'altro, il primo obiettivo che ci poniamo con questo progetto e con questo processo di formazione è cercare di modificare i comportamenti dei singoli, proprio perché in questo modo si riesce, solo con il comportamento, si riesce poi a pensare a quali sono le opportunità di intervento delle tecnologie oppure delle politiche, che altrimenti non troverebbero un terreno adeguato, non troverebbero, come diceva lei prima con l'esempio dell'acqua. Per risparmiare l'acqua abbiamo bisogno di spiegare anche perché è importante risparmiare l'acqua. Ecco, figuriamoci, professore, scusi se la interrompo, ma tanto continuiamo fra poco, figuriamoci sulla mobilità sostenibile, laddove il cittadino è protagonista assoluto. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Oggi in realtà abbiamo temporaneamente interrotto questo viaggio perché ci siamo fermati nelle isole Cresco, le isole della crescita compatibile, l'iniziativa di Sodalitas e di 23 imprese che hanno promosso queste isole con uno scopo specifico di trasferire le pratiche, gli investimenti, le ricerche, la sensibilità, l'attenzione, la capacità di innovazione all'amministrazione comunale. Capite che stiamo parlando non di poco, capite che stiamo parlando di un processo che potrebbe addirittura modificare il tessuto connettivo stesso dell'impresa e del rapporto con il territorio. E per questo con la professoressa Emanuela Colombo del Politecnico, che ha l'onore e l'onere, dicevamo poco fa, di rendere fattivo il percorso di formazione e di divulgazione, stavamo dicendo anche come questo avverrà nelle scuole, gli eventi e anche la pubblica amministrazione, forse quella che insomma ha un bel bisogno anche lì di spiegare e di educare. Sì, infatti la strategia formativa è stata pensata proprio sulla base delle competenze, dei ruoli e delle esperienze dei partner coinvolti, quindi sia dell'università, ma anche delle imprese, ma anche delle associazioni che operano sul territorio come Lega Ambiente e Cittadinanza Attiva. Il target del processo formativo è suddiviso in quattro fasce: i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni, i professori e gli studenti. Il progetto prevede un'attività, due tipi di attività: un'attività propedeutica, proprio di vera e propria formazione, sia cognitiva che esperienziale, e quindi organizzeremo una serie di eventi e di conferenze sulle linee tematiche, le cinque linee tematiche importanti, quindi la sostenibilità in generale, l'acqua, l'energia, la mobilità. Abbiamo già detto, perfetto. Invece sulle scuole cosa fate? Andate lì in classe a parlare con i ragazzi, che poi sono quelli che insomma devono crescere a questi nuovi valori. Allora, sulle scuole abbiamo intenzione di operare in sinergia con Ingegneria Senza Frontiere e con le imprese per attuare quello che noi chiamiamo, e che è abbastanza noto, come il processo di peer education. Certamente ha molto più senso che a parlare di queste tematiche agli studenti vadano a parlare gli studenti un po' più grandi, i loro compagni un po' più grandi. Quindi noi, attraverso una rete di conoscenze che abbiamo già messo a punto e abbiamo già sperimentato in sinergia proprio con l'ufficio scolastico regionale, riusciamo ad utilizzare gli studenti universitari opportunamente formati su queste tematiche, che magari seguono proprio i corsi di ingegneria energetica, di ingegneria ambientale, eccetera, per farli andare a insegnare nelle scuole con delle logiche didattiche nuove, diverse rispetto alla lezione comunicazione ex cattedra monodirezionale, coinvolgendogli in giochi di ruolo, in attività partecipate. Ex cattedra monodirezionale, speriamo indubbiamente di no, perché solo a sentirla pronunciare questo termine ci spaventa. In effetti, complimenti, è una bellissima idea, perché scattano dei meccanismi che vanno al di là, no, del dogma, dell'insegnare, del coinvolgimento. È davvero una modalità molto interessante. Grazie professoressa, ne parleremo ancora. Veda, questo momento di trasferimento delle pratiche avverrà, per esempio abbiamo sentito attraverso l'autorevolissima fonte accademica, no? Ma poi l'azienda materialmente cosa fa? Porta il CD con i PowerPoint, come si dice dalle nostre parti, oppure innesta un manager che va al comune e sta lì a presidiare? Cioè, come avviene il trasferimento? Ma avviene in modo molto semplice. L'isola Cresco sceglierà tra una serie di buone pratiche quelle buone pratiche che sono più utili per far crescere il comune. Una volta scelta, ad esempio, il risparmio dell'acqua, se sceglie il risparmio dell'acqua, sarà proprio una persona, un ingegnere dell'azienda, che andrà nel comune e parlerà con gli esperti di acqua del comune per mettere a punto questo progetto. Quindi sarà qualcosa che arriva all'Isola Cresco dall'esterno e non potrà che contribuire a migliorare la situazione in quello specifico elemento. Ecco, voi capite, io non so se Beda si è reso conto di quale meccanismo diabolico ha innestato. Voi capite che se arrivano gli ingegneri piuttosto che i sociologi o gli uomini di marketing da ST, che l'abbiamo sempre citata, ma citiamo anche qualcun altro, su Pirelli, piuttosto che la stessa Coca-Cola, Edison, Enel, le banche, c'è di tutto. Arrivano questo esercito di esperti nei vari comuni. Sindaco di Abbiategrasso Roberto Albetti, buongiorno. Buongiorno. Se arrivano questa orda, dico fra virgolette ovviamente, perché sono grossi professionisti, a presidiare i tavoli tecnici delle amministrazioni, rischiano di fare delle cose eccellenti, ma anche di creare qualche problema. Lei qualche problema di gestione, immagino. Lei è il sindaco di Abbiategrasso, che è uno dei tre comuni che sono stati selezionati in Lombardia, gli altri due sono Carugate e Morbegno. Quindi lei adesso ci deve dire, dal suo punto di vista di sindaco, tanto quanto tempo è che fa il sindaco lei? 2 anni e mezzo. Vabbè, quindi è un neofita, però mi sa che non è un neofita nel mondo dell'amministrazione della politica. Ecco, che cosa vuol dire per un comune a questo punto aprire le porte all'impresa? Pro e contro di questa operazione? Ma io devo dire solo, se mi permette, potrei dire che Abbiategrasso dove si colloca, per capire poi. Sì, certo, tutte, certo. Ecco, noi siamo a 20 km da Milano, siamo il comune con più vocazione agricola e con più terreno agricolo di tutto il territorio della provincia di Milano. Siamo nel contesto del Parco del Ticino e del Parco Sud Milano. Quindi sicuramente la tutela dell'ambiente è una priorità per governare questa città. Ecco, quindi l'isola di Crespo, quando ci è stata proposta, e per noi siamo molto felici di aver aderito, da un lato ci ha fatto piacere per un riconoscimento di questo e dall'altro ci serve per continuare tutta un'iniziativa che stiamo portando avanti dalla firma e dell'adesione del patto dei sindaci promosso dalla Comunità Europea nel 2008, che è un'assunzione di responsabilità forte che ci impegna a ridurre di oltre il 20% l'emissione, per esempio, del gas serra. Come? Quindi ecco, questo che si sta dicendo oggi di come noi intendiamo portare avanti è anche dentro un percorso che noi abbiamo, per esempio, noi da un decennio siamo all'interno del circuito delle città slow, una delle città che le ha fondate, e che quindi porta avanti sotto il profilo del vivere, impegna la nostra realtà sotto il profilo delle politiche anche ambientali, nel teso proprio del problema educativo, sì, e dei giovani, infatti. E quindi questo come cala poi nel tessuto scolastico. Questo compatibilmente col fatto che Abbiategrasso, come Carugate, come Morpegno, piuttosto che con altre realtà urbanistiche importanti, sono in un contesto, no, per cui cioè, non si riesce ovviamente a isolare Abbiategrasso con una bolla di vetro. È chiaro che la politica ambientale è un contesto da condividere, e queste iniziative, per esempio, oltre che mettere in contatto imprese e comuni, mettono in contatto anche comuni e comuni, no? Perfetto. Noi infatti sul discorso, per esempio, stiamo iniziando il recupero del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti, col metodo del porta a porta, recuperando il gap che negli anni precedenti è stato segnato, e con questo siamo entrati in collaborazione con la città di Magenta e con Legnano per fare delle sinergie. Benissimo. Insieme. Benissimo. Abbiamo instaurato un discorso di risparmio energetico per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, eccetera. Cioè, l'azione che noi stiamo facendo è sicuramente quella di una sinergia con i comuni limitrofi, che va anche a interessare le persone singolarmente, perché lo sforzo piccolo messo insieme in una città di 30.000 abitanti può portare realmente a dei risparmi. Sindaco, grazie, complimenti, in bocca al lupo, seguiremo l'iniziativa. Io voglio dire, senza voler mettere in imbarazzo nessuno, però già nel sentire all'inizio di questa trasmissione il direttore generale di una multinazionale e a sentire alla fine di questa trasmissione il sindaco di un comune coinvolto, dalla loro forma espressiva, da quello che dicono, si capisce che da un lato c'è, lasciamo perdere, voglio dire, l'estetica del linguaggio, per cui magari quello è più rapido perché l'impresa è più rapida dell'amministrazione, ma già si intuisce quale può essere questo rapporto, no? Le differenze ma anche le congruità fra i due rapporti, la strategia dell'azienda, del comune sul territorio, la capacità di un'azienda di essere efficace sul territorio. Ma l'obiettivo è quello proprio di fare rete, perché solamente facendo rete tra industria, università e comuni, e noi speriamo di raggiungerlo, ma perché il tema della sostenibilità ambientale è un tema di drammatica importanza del futuro. Sostenibilità ambientale vuol dire essenzialmente tre cose: salute e benessere dei cittadini, perché con l'inquinamento non si scherza, solidarietà verso il nostro prossimo. Quando pratichiamo la sostenibilità, facciamo una solidarietà verso il prossimo, l'azione sociale, certo. Ma poi verso le generazioni future, a cui dobbiamo lasciare un mondo almeno non peggiore di quello attuale. E l'aspetto economico. L'aspetto economico è quello che secondo me è il più sottovalutato, che è il discorso del lavoro. Basta pensare che già oggi ci sono 200.000 posti creati nell'ambito del tema della sostenibilità ambientale, e si prevede che diventino 500.000 nei prossimi 5 anni. E sappiamo di quanto ce n'è bisogno di sentire questi discorsi. Vi abbiamo ancora una volta dimostrato in questo viaggio di ferribotto, con l'aiuto di Alessandro Beda, vicepresidente di Sodalitas, come l'economia sociale non sia né un vezzo né, come dire, un atteggiamento buonista. L'economia sociale è il ventre dei nuovi sistemi, dei nuovi stili di vita e di consumo. Quindi continuate a seguirci, il traghettatore El Sargante vi invita al prossimo viaggio. Ricordatevi che, fra l'altro, se sentite bisogno irresistibile di riascoltare questa trasmissione, su www.radio24.it è disponibile questa, le precedenti e le future. A presto, grazie.